Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche del, chiaramente, del piano Juncker, o meglio della riproposizione del piano che oggi ha fatto il presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker, accolto in maniera positiva dai popolari e dai socialisti nell'Europarlamento, in maniera molto più scettica dalle opposizioni, chiamiamole così, soprattutto dagli euroscettici. Si trattava del discorso sullo stato dell'Unione Europea e Juncker ha ammesso che siamo in crisi esistenziale in Europa, che i cittadini sono stufi di governi che hanno poca coerenza. Ha proposto, ripeto, un piano aumentato su, per quello che riguarda la dotazione di questo piano, dei miliardi. Il piano di investimenti ha generato, ha detto Juncker, 150 miliardi lo scorso anno, ma dobbiamo fare di più, bisogna arrivare almeno a 500 miliardi entro 2020, ipotizzando fino a 600 miliardi complessivamente. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, poi vedremo come e quanta, diciamo, ciccia, scusatemi il termine, rispetto alle dichiarazioni di intenti vi sia. Parleremo invece in apertura di una grossissima operazione di carattere finanziario, ma che crea un colosso economico, e mi riferisco al nuovo colosso dell'agrochimica che andrà a crearsi tra la fusione tra Bayer e Monsanto. L'azienda farmaceutica tedesca pagherà infatti $128 in contanti per ogni azione del colosso Monsanto, che vuol dire pagare un'operazione che vale complessivamente $66 miliardi, con un premio rispetto alle attuali quotazioni di Monsanto in borsa del 44%. E tra l'altro, se l'antitrust dovesse bocciare l'operazione, la commissione da pagare sarà non più di 1,5 miliardi, ma 2 miliardi. La chiusura dell'operazione è prevista per il 2017. Il neogigante dell'agrochimica controllerà quasi un quarto, il 24% del mercato dei pesticidi e il 30% di quello delle sementi. Ricordiamo che il corteggiamento di Bayer era iniziato già l'anno scorso con un'offerta di $122, appunto, poi saliti a $128 per azione. Un'operazione che va e che segue in qualche modo quello che è la concentrazione nel settore. A molti non piace, c'è il rischio in effetti di avere una concentrazione eccessiva, ma segue quella tra Dow Chemical e DuPont, operazione da $133 miliardi, e quel che ha visto fondersi Chem China con Syngenta, $44 miliardi. Ne parleremo in apertura, parleremo come sempre anche di mercati finanziari e della vicenda Monte dei Paschi, perché oggi appunto il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi a Milano per la nomina di Marco Morelli nel ruolo di amministratore legato in sostituzione di Fabrizio Viola, e cercheremo di capire se quella del Monte non sia solo sostanzialmente la punta di un iceberg o comunque l'elemento più evidente di un problema ben più ampio. Perché? Perché circolano già voci sulle ipotesi per quello che riguarda il gruppo Unicredit. E allora il punto è: va bene risolvere il problema di Monte dei Paschi, ma capire se il problema, diciamo così, non sia più di carattere sistemico. Al di là della vicenda Monte dei Paschi, oggi la borsa è invariata a Milano, sostanzialmente invariata anche a Francoforte, meno 0,30 a Parigi, più 0,30 a Londra, invariata negli Stati Uniti. Va bene FinecoBank più 3,20 come Buzzi Unicem, il 2,40 lo guadagna Recordati, l'1,80 Mediaset, l'1,40 Mediolanum e Unipol, l'1% Campari, Prismia, Nexor e CNH Industrial. Fronte opposto UbiBanca meno 1,70 come Generali, l'1,5 lo perde Fiat Chrysler, l'1,40 Moncler, l'1,30 Unicredit, l'1% Unipol Sai e Telecom Italia e anche Leonardo Finmeccanica. L'euro a quota 1,1254, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. A Allora, sul fronte internazionale è arrivato oggi dalla Turchia, da Ankara, il primo via libera, il primo permesso per procedere alla costruzione del Turkish Stream, il gasdotto che porterà il gas in Turchia e poi forse nell'Europa meridionale. Ancora, al di là di Juncker, ripeto, ne parleremo, tanto il tema è sempre quello, capire al di là delle, ripeto, delle dichiarazioni, quello che c'è di concreto. Tra l'altro Juncker si conferma, chi me lo chiede, che ha annunciato che il piano dell'Unione Europea è di arrivare a wifi gratis in tutti i centri urbani entro il 2020. È una proposta, è piena applicazione della tecnologia 5G entro il 2025. E poi la parte sui migranti, per carità, riguarda meno in maniera diretta questo programma, però il Consiglio europeo oggi ha dato via libera al regolamento della nuova agenzia europea di guardia coste e guardia di frontiera, e sostanzialmente le agenzie titolano le guardie di frontiera di carattere europeo. Per quello che riguarda le tensioni in Europa, il ministro degli esteri del Lussemburgo, Hasselborn, ha attaccato frontalmente in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt il governo ungherese, quello di Orban, dichiarandosi favorevole all'uscita dall'Ungheria e dall'Unione Europea. Bruxelles non può accettare che i suoi valori fondamentali siano violati in maniera rilevante, e a chi come l'Ungheria costruisce barriere contro i profughi di guerra dovrebbe essere sospesa temporaneamente la partecipazione all'Europa o anche per sempre. Devo dire che insomma o tutti i paesi si muovono in maniera autonoma o chi si muove in maniera autonoma e senza, da questo punto di vista, l'approvazione dell'Unione Europea deve incorrere in qualche sanzione. Sempre su questo, oggi sui temi che riguardano il patto di stabilità, il deficit, poi ne parleremo in maniera più ampia. Oggi il Presidente del Consiglio all'inaugurazione della nuova scuola antisismica di Bagnolo in provincia di Cuneo ha detto tutto ciò che serve all'edilizia scolastica deve essere fuori dal patto di stabilità, quindi fuori dal calcolo del deficit. Siamo pronti a fare ogni tipo di investimento sull'edilizia scolastica, tutto ciò che serve alla stabilità dei nostri figli. Fare le scuole è la prima cosa che devono fare gli amministratori, i sindaci, tutti i sindaci che sono qua, il Presidente del Consiglio, il Ministro, i Ministri, è la cosa più importante di tutte. Noi abbiamo detto con molta chiarezza, tutti gli investimenti che vengono fatti nelle scuole, nell'adeguamento antisismico, negli interventi per dare degli edifici belli, di qualità ai nostri figli, devono stare fuori dal patto di stabilità. La diciamo non soltanto ai sindaci, ma anche agli altri sindaci, agli amministratori, a quelli che ci sentono in Italia e aggiungo in Europa. Così lo diciamo chiaro. E restiamo in Italia, perché oggi l'Istat ha confermato prezzi in deflazione nel mese di agosto, meno 0,1%, pesa soprattutto l'andamento del settore servizi, comunicazione e trasporti. Al lordo dei tabacchi la diminuzione appunto dello 0,1% su base annua, identico l'andamento dei prezzi ad agosto a quello del mese di luglio. E tra l'altro, dicevo, servizi e comunicazioni meno 1,4%, mentre come sempre è leggermente positiva la parte dei beni di maggiore consumo. Tra l'altro oggi la Coldiretti fa notare come la deflazione stia avendo effetti devastanti nelle campagne, dove le quotazioni per il grano duro sono quasi dimezzate, meno 43%, il latte viene ormai pagato come l'acqua, secondo quanto ha denunciato e cita lo stesso Jean-Claude Juncker. La Confcommercio però oggi, in una stima del direttore dell'ufficio studi dell'associazione Mariano Bella, dice che nel 2016 il PIL potrebbe arrivare all'1%, ma comunque un 1,5% sarebbe al massimo la somma di due anni, 2015-2016, che purtroppo è un elemento, lo dice lo stesso Mariano Bella, di forte delusione se consideriamo le condizioni internazionali che erano più che positive, quelle di cui parlavamo ieri: euro a 1,11, tassi di interesse a zero, petrolio ancora intorno ai $40, meglio di così non si può come contesto. E poi sempre la Confcommercio fa notare che sono triplicate dal 2006 le persone in povertà assoluta, arrivate a 4.600.000 nel 2016, un record mai registrato. Sono raddoppiate anche le spese obbligate dal 95, però di questo ha parlato poco fa lo stesso Mariano Bella con Oscar Giannino nel programma La Versione di Oscar, e vorrei farvi ascoltare questo passaggio proprio sul tema del PIL, perché sull'andamento dei consumi nel, come contributo al tema del PIL. La crescita, se la confrontiamo con lo scorso anno, i numeri sono ancora buoni, il problema è che sono fortemente decrescenti, cioè se guardiamo per esempio gli occupati nel 2016, i primi 7 mesi fanno più nel 4, nel 2015, che poi chiuse come PIL al 0,8, faceva il 0,7, quindi uno dice stiamo andando bene. No, non stiamo andando bene, perché è fortemente decrescente tutto il complesso degli indicatori, soprattutto la fiducia. Purtroppo va ripetuto, sono 7 mesi che la fiducia delle famiglie sostanzialmente scende, quindi purtroppo la frenata c'è. Tutti rivedremo il preconsuntivo del 2016 e probabilmente si abbasserà al 2017. Ciò non vuol dire che non ci siano dei segnali ancora buoni, apprezzabili, per esempio su luglio e agosto. Oggi abbiamo visto le immatricolazioni di veicoli industriali, abbiamo visto che le auto ad agosto sono andate bene, abbiamo visto che il turismo probabilmente tra luglio e agosto è andato anche bene. Tutto ciò però purtroppo non basta per affrancarci dalla dittatura dei decimali sui quali io francamente comunque non scherzerei. Per quanto riguarda i consumi, abbiamo le conferme sulla terziarizzazione dei consumi, cioè ormai non si domandano beni, e si domandano servizi, si domandano soluzioni e non oggetti. Siamo ormai quasi al 53%, 10 anni fa, 20 anni fa eravamo al 43%. Questa in teoria è una cosa anche favorevole. La cosa brutta è che ci sono le spese obbligate, cioè luce, acqua, affitti, gas e tutto, quelle cose che non vengono offerte ancora in un regime perfettamente concorrenziale, esatto, perché purtroppo hanno un'inflazione che è il doppio, il triplo rispetto a quella dei beni. Questo per Confcommercio e per i consumatori in generale vuol dire che c'è un passaggio di risorse dalle nostre tasche, dalle tasche dei consumatori, attraverso la spesa, le spese obbligate, ai monopolisti, che invece bisogna provare un pochino a smontare. Allora, devo dire che anche il ragionamento e l'analisi del centro studio della Confcommercio va nella direzione che ricordavamo anche ieri, cioè parlando con l'ex ministro Giovannini dei dati su occupati, disoccupati e tasso di disoccupazione. I dati sono ancora positivi, ma sono in rallentamento, è quello che raccontava appunto anche poco fa Bella. E quello che assistiamo su tantissime voci, non solo l'occupazione, consumi e resto e PIL, cioè resta il segno più, ma è un più sempre più debole. Questa è la preoccupazione sulla seconda metà dell'anno, ormai insomma, possiamo parlare anche dell'ultimo trimestre tra poco dell'anno, e soprattutto del modo in cui entreremo nel 2017. Non c'è una contraddizione tra le due cose, mentre è preoccupato il ministro Poletti, perché ammette che il problema dei lavoratori precoci in vista dell'APE e quindi l'anticipo della pensione, l'abbiamo spiegato lungamente, è molto difficile da affrontare perché ha un livello di costo molto alto, e quindi, ha aggiunto Poletti, per trovare una soluzione occorre fare i conti, ed è quello che faremo in occasione del prossimo incontro con i sindacati il 21 settembre. Poletti ha anche detto di non essere un mago, di non poter prevedere se arriverà la firma sull'anticipo per l'uscita dal mondo del lavoro e l'ingresso nella pensione proprio il 21 settembre. Noi abbiamo detto in termini molto chiari che questo era un problema molto difficile da affrontare perché ha un livello di costo molto alto, quindi dobbiamo fare i conti, e questa è una discussione che faremo nella chiusura del confronto tra le organizzazioni sindacali e il governo, perché abbiamo sul tavolo una serie di problemi da affrontare e risolvere, li abbiamo in questa fase identificati, definiti, abbiamo valutato qual è la platea delle persone a cui ci si può rivolgere, quanto costa potenzialmente ogni tipologia di intervento, e il 21 ci vedremo per discutere la conclusione. non sono un mago, io penso che si sia fatto un bel lavoro, comunque un lavoro approfondito che ci ha reso chiaro a tutti quali erano i problemi e quali erano le possibili soluzioni, quali sono le possibili soluzioni a cui guardare. Poi naturalmente in quella sede ognuno porterà le proprie valutazioni e a seguito di questo confronto poi ognuno tirerà le proprie considerazioni. Allora, sì, a chi mi dice anche oggi ha trasmesso Renzi, certo, il Presidente del Consiglio, mentre sono d'accordo che il piano scuola fu molto annunciato da Renzi quando prese la Presidenza del Consiglio. Se è così, come abbiamo sentito, lui ritiene che debba essere scorporato dal calcolo del deficit, lo si faccia, lo si porti in Europa subito. E lo si faccia subito, perché abbiamo spiegato in tutti i modi che l'edilizia scolastica, oltre che mettere in sicurezza la vita dei nostri figli, elemento primario, ma anche, se vogliamo guardare un elemento secondario dal punto di vista economico, una grossissima capacità di fare da volano e quindi di essere anticiclica rispetto a un'economia in rallentamento, perché sono lavori molto locali, molto mirati, di entità non enorme. E quindi il valore redistributivo, diciamo, nel generare PIL è molto più alto in alcuni casi ed è molto più, e resta molto più su quei territori rispetto a grandi opere, in alcuni casi necessarie, ma che hanno tutt'altro tipo di dinamica e di logica. Lì fai lavorare, insomma, per essere molto banali, le imprese edilizie del territorio e la ricaduta ce l'hai sul territorio. Quindi è veramente, per chi ama Keynes, proprio l'elemento forse più keynesiano che possiamo immaginare. Andate avanti e ottenete in maniera formale, non solo come dichiarazioni, Presidente del Consiglio dell'Europa, il fatto che l'edilizia scolastica possa essere scorporata dal patto di stabilità, altrimenti restano solo parole. Ultimo aspetto riguarda l'educazione finanziaria degli italiani. Ieri abbiamo un po' non polemizzato con la Consob, ma ironizzato, per la Consob faceva notare che gli italiani sono ignoranti in finanza, quasi il 60% non ne sa nulla. Ci siamo permessi di dire alla Consob che dovrebbe occuparsi anche di altre cose, oltre che degli studi sulla cultura finanziaria degli italiani. Però riprendiamo il tema, perché lo fa Alessandro Platerotti per i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Emissione Suono, proprio in maniera più ampia su che cosa voglia dire dopo anni di scandali, di bolle speculative, di crisi finanziarie, di fregature da parte delle banche, avere una cultura finanziaria così bassa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I mercati finanziari continuano ad andare in altalena, ieri un recupero di Wall Street, oggi una nuova caduta, oggi soprattutto ancora incertezza sul passo dell'economia, sul futuro dei tassi di interesse e della liquidità che riesce ai mercati. Ma per quanto riguarda l'Italia, due conti sono possibili: le banche continuano a pesare negativamente sul listino, ci sono i titoli energetici sempre sotto pressione per effetto del petrolio, ma soprattutto c'è una constatazione che va fatta. Malgrado le incertezze e le paure che spingono sempre più risparmiatori a chiedersi se lasciare risparmio in borsa, la tendenza, la propensione e soprattutto l'importanza della consulenza finanziaria, di rivolgersi ai professionisti, di chiedere la composizione del proprio portafoglio se è giusto, che cosa comprare, che cosa vendere, insomma rivolgersi a chi fa questo mestiere e professione, è ancora troppo bassa. Colpiscono i dati diffusi dalla Consob su il bassissimo livello di consulenza finanziaria, soprattutto a livello indipendente dei risparmiatori, ma soprattutto colpisce una cosa, che la spesa in cartomanzia, occulto, previsioni del futuro con le carte o con la sfera, continua ad essere persino superiore a quello che si spende per difendere il portafoglio. Gli ultimi calcoli dicono che si spendono 15 miliardi l'anno in Italia per farsi fare le carte. Beh, per la consulenza finanziaria il livello arriva quasi alla metà. Si tratta di un fatto certamente non edificante e su cui riflettere quando ci si chiede perché il proprio risparmio non è sicuro in borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi sulla cartomanzia. No, guardate, noi ospitiamo la maga almeno una volta all'anno, l'astrologa, non la maga, perché l'ho chiamata maga, l'astrologa, non è come gioco, vista la capacità di previsione che hanno avuto grandi analisti molto meglio pagati. Però il tema, al di là della battuta, è serissimo, cioè un paese che spende il doppio in carte, tarocchi e ampolle rispetto non a ascoltare le carte e i tarocchi degli analisti finanziari, ma a farsi una propria cultura finanziaria. Beh, insomma, ogni tanto bisogna piangere anche se stessi. Allora, il colosso dei pesticidi, mi scrive qualcuno. Vabbè, certo, stiamo parlando della fusione tra due colossi veri, il gruppo Bayer e il gruppo Monsanto. Ne parliamo subito dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Arriviamo tra pochissimo anche alla vicenda Monsanto-Bayer, che poi, ripeto, l'operazione, salvo impedimenti imprevisti dell'antitrust, si completerà nel 2017. Vorrei però, visto che la borsa è appena chiuso, andare subito sulla notizia non tanto di borsa ma di finanza, sicuramente più importante della giornata, quindi il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. Tra l'altro il Monte dei Paschi oggi, pur senza avere un calo drammatico, è il peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, ha perso il 2%. In questo momento Piazza Affari chiude con un più 0,1%. Consiglio di amministrazione per la nomina di Marco Morelli al posto di Fabrizio Viola. Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ti abbiamo appena sentito con i 100 secondi, ma su tutt'altro tema. Allora, due domande molto secche e molto veloci, poi arriviamo al... Marco Morelli, c'è chi ha iniziato in questi giorni, noi l'abbiamo ricordato anche ieri, la procura l'ha completamente scagionato sempre, e anzi c'è chi ha messo in evidenza il fatto che lui se ne andò proprio per lo scontro con la gestione allegra e sotto inchiesta della magistratura di Mussari e Baldassarri. Però è il periodo 2006-2010, uno fa il direttore finanziario in quel periodo della banca. E vorrei una prima opinione su questo, perché sì, lì c'è chi dice no, guarda che lui se ne andò proprio perché era in completa... Io posso dire che per esperienza personale, cioè il lavoro che abbiamo fatto con il Sole 24 Ore in quegli anni e anche dopo, ovvero abbiamo seguito le vicende giudiziarie senza sconti per nessuno, questa è stata la caratteristica del nostro lavoro. Beh, quello che ne è emerso è un quadro totalmente diverso da quello che stanno cercando di presentare chi non vuole Morelli al Monte dei Paschi di Siena. Teniamo presente che chi sta un po' orchestrando queste informazioni ha naturalmente molto spesso interessi personali, cioè ovvero cercare di andare lui al posto di Morelli. Certo. Quello che posso dire è questo: conoscendo l'attenzione dopo gli scandali degli anni scorsi e soprattutto quelli che hanno travolto Wall Street, certamente Merrill Lynch Bank of America, la più grande banca del mondo, non assume una persona se solo c'è l'ombra di qualche residuo giudiziario, strascico giudiziario che può spuntare fuori. Quindi Morelli è stato scelto da Merrill Lynch per l'Italia proprio per questo motivo, non ha assolutamente nulla. Due, la questione della multa che ebbe da Banca Italia. Beh, bisogna tenere presente anche questo, si omette di dirlo, che la multa di Banca Italia fu staccata 20 giorni prima, un mese prima che la Procura di Milano, la Procura di Siena, la Procura di Milano perché c'è l'aspetto della borsa, certo, concludessero il loro lavoro, scagionando totalmente Morelli. Quindi in questo caso, ed è evidente che se la sentenza fosse arrivata prima, nei tempi che si erano attesi, certamente anche quella multa per Morelli non ci sarebbe stata. Oh, questo per quello che riguarda le polemiche di cui abbiamo dato conto di questi giorni. Veniamo al futuro del Monte dei Paschi. Qui le domande sono molto semplici. Abbiamo capito che l'ipotesi è di far slittare i 5 miliardi, ammesso che siano 5 miliardi, che non siano 2,5 con, certo, una conversione che ieri raccontavamo, al 2017. Però il punto è un altro, a mio avviso, fermo restando quello che poi deciderà il Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi è in questo momento il problema, come ci ripetono molti banchieri e manager quando vanno all'estero, si sentono dire le vostre banche e il Monte dei Paschi, o peggio mi sento, è la punta del problema, o meglio l'elemento, non voglio dire che sotto ci sia un iceberg, no, ma l'elemento più evidente di un problema che non si può però confinare solo al Monte dei Paschi. Lo dico perché se fosse la seconda è chiaro che tu devi trovare una soluzione che possa valere anche per altri casi, altrimenti ogni volta riapriamo un dossier. Ecco, no, dunque, in questo momento il Monte dei Paschi è considerato come la prova del 9 di come l'Italia è capace di, da sola, con le proprie forze, forze private, perché i finanziamenti vengono dal settore privato per questa operazione, sia in grado di risolvere i problemi del proprio sistema bancario. È ovvio che la percezione che c'è del sistema è debole, ma non risolvere bene, e ripeto, la questione della nomina dell'amministratore delegato fa parte di questo giudizio. Queste polemiche non fanno bene sicuramente, perché sono assolutamente strumentali. Quello che è certo è che se non siamo in grado di chiudere l'operazione del Monte dei Paschi, la percezione di un'Italia che va alla deriva sul credito ne viene rafforzata. Il rischio, e questo fa paura ai mercati internazionali, è che nel caso in cui si rinviasse nel tempo l'aumento di capitale, si trascinasse troppo a lungo, se altre banche importanti italiane dovessero fare lo stesso altri aumenti di capitale, come facciamo a convincere gli investitori internazionali a sottoscriverli allo stesso tempo? Questo porta a una conclusione finale. Questo è un paese che purtroppo non ha azionisti. Noi abbiamo un mercato, ma non abbiamo gli azionisti disposti a investire nelle banche. Abbiamo impedito alle fondazioni di stare nelle banche, anzi abbiamo costretto a scendere. Ora le fondazioni hanno i loro problemi oggi finanziari, ma è un fatto che sono state il puntello della tenuta, soprattutto della presenza italiana all'interno del capitale delle nostre banche. Dobbiamo riconsiderare come vogliamo che vengano fatti, chi deve sottoscrivere questi aumenti e la necessità di rafforzare ogni strumento che ci consenta di avere delle forze di mercato capaci di investire o sulle imprese o sulle banche, altrimenti se le compreranno tutte gli stranieri o finiranno in risoluzione. Quindi, se ho ben capito, tu dici il modo in cui risolveremo la vicenda Monte dei Paschi sarà, diciamo, il paradigma, chiamiamolo così, per come potremo affrontare altre vicende. Perché il problema di sofferenza non è solo del Monte dei Paschi, è di tutto il sistema. Allora, quello deve diventare l'operazione simbolo, quella fatta in provetta, diciamo in questo modo, per far vedere che siamo, abbiamo la formula per uscire da questo problema. C'è chi dice che, problema. Cito anche appunto altre opinioni, chi dice, attenzione, tanto risolto il Monte dei Paschi, come nei videogame, se non ricordo male, fu di Tremonti, il copyright sulla crisi, arriva un altro mostro, nel senso, uso il termine da videogame, non voglio dire, uccidi un mostro, ne spunta fuori un altro. Uccidi un mostro, ne spunta fuori un altro. E quindi ci dice, guarda che l'unica soluzione sarebbe avere un'operazione di sistema, se non ricordo male Zingales lo propose anche sul Sole 24 Ore, cioè un TARP all'americana, che era il famoso piano di salvataggio, di conversione, cioè le banche mettevano, lo spiego male, dei titoli che venivano comprati dal governo, erano dedicati, diciamo, al titoli dedicati all'acquisto a parte dello Stato, perché se no tu si stai in Monte dei Paschi, poi se ne apre un'altra, poi se ne... e così ci massacrano. Sei d'accordo su questa visione? Ma sono problemi differenti, perché in America c'era un problema di rafforzamento patrimoniale, le banche avevano eroso completamente il capitale con delle operazioni rischiosissime e che hanno fatto perdere tantissimi soldi agli investitori, poveretti, anche mutuatari a chi aveva casa, perché hanno perso le case, e poi in generale a tutto il sistema finanziario mondiale. Quello era una situazione diversa. Qui non siamo in questo momento in una crisi sistemica del credito italiano, siamo in presenza di una crisi aziendale, che è quella del Monte dei Paschi, e che va risolta. È una crisi che è onerosa, questo non c'è dubbio, perché quando hai 20-30 miliardi di sofferenze da smaltire è onerosa. Operazioni di sistema che significa? Quello che stiamo tentando di fare, cioè di mobilitare delle risorse private, attenzione, risorse private, perché l'aiuto di Stato è in agguato e l'Europa, come vedete, sta sempre con la baionetta sul fucile, pronta ad intervenire su queste questioni, credo sbagliando, perché dovrebbe essere un ragionamento di opportunità più che di rigidità. E di danno sistemico. Però l'attenzione, perché le operazioni di sistema oggi non hanno più il significato di una volta, compro l'Alitalia mettendo insieme quattro, qui operazioni di sistema significa trovare i soldi all'interno del sistema privato per far sì che evitiamo che ci siano altri danni ai risparmiatori, agli investitori e soprattutto alla sicurezza delle famiglie. Questo è un momento delicato per l'economia. Tu tendi a escludere quindi un ingresso alla fine della cassa depositi no, e prestiti? No, non ci sarà un ingresso della cassa depositi e prestiti per due ragioni. Primo, perché non ho visto ancora mettere un solo euro, uno, sulle banche da parte dello Stato, abbiamo parlato tanto, abbiamo delle garanzie sulle cartolarizzazioni, ma non abbiamo soldi. Queste sono operazioni che vengono fatte dal mondo privato, perché i primi ad avere a cuore la salvaguardia del sistema sono gli stessi banchieri, perché in questo paese non c'è un mercato dei capitali dove io vado in borsa e prendo finanziamenti a go-go, c'è un mercato dove famiglie e imprese si rivolgono alle banche. Non farle funzionare significa paralizzare l'intera economia italiana e le nostre speranze di ripresa. Allora, grazie Alessandro Pratterotti, grazie, poi vedremo che cosa uscirà dal Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi. Morelli non è presente al Consiglio, questo bisogna stare attenti, perché è stato espresso chiaramente dal Consiglio di Amministrazione l'idea di che non fosse presente alla discussione. Questo è un fatto che posso darvi io. No, e questo è anche importante, adesso io non ho visto uscire agenzie in questi minuti, quindi immagino che siano ancora riuniti. Grazie intanto al vice direttore del Sole 24 Alessandro Pratterotti, e adesso noi andiamo invece su un altro tema molto grosso di finanza, ma non solo, quello che avevo anticipato, la fusione annunciata, a questo punto l'accordo c'è, vedremo se la fanno fare Monsanto Bayer. Allora, dicevo, la fusione, il colosso dei pesticidi, scrivono alcuni. Vabbè, è ovvio che stiamo parlando di, da questo punto di vista, di uno dei colossi mondiali nella produzione di pesticidi, e la Monsanto. Allora, l'operazione vale 66 miliardi di dollari, un premio del 44% rispetto alle attuali quotazioni di Monsanto, visto che il titolo Monsanto viene valorizzato a 128 dollari per azione. A questo punto il neo gigante controllerà quasi un quinto del mercato dei pesticidi, il 30% di quello delle sementi. Sembra un'operazione enorme, ma faccio notare, nel salutare Marco Valsania in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Faccio notare che Dow Chemical e DuPont come operazione valse 133 miliardi e Syngenta con ChemChina 44 miliardi. Vorrei capire se questo è l'ultimo tassello di questa grande operazione di fusioni nel mondo della chimica e dell'agrochimica, soprattutto, ma anche se vi potrebbero essere problemi di antitrust. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza perché ho il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, Marco Valsania, è un ulteriore, forse ultimo tassello nelle aggregazioni, e il ruolo dell'antitrust in questa vicenda? Ma sì, sicuramente potrebbe essere difficile ripetere operazioni di questo tipo, anche semplicemente guardando, così prendo esempio di due cifre. Cioè, a questo punto il mercato dell'agribusiness, dei pesticidi e delle sementi è dominato da tre colossi, Bayer, Monsanto e quelli che ricordavi tu prima, cioè la Dow Chemical, che a questo punto ha assorbito la DuPont, e il colosso, diciamo, in arrivo ChemChina Syngenta. Ecco, questi dominano l'80% delle sementi del mais del grande mercato americano e il 70% del business globale dei pesticidi. Sì, ma se non è un cartello, diciamo, questo cos'è un cartello, scusami? Sì, è quasi un cartellone. È un cartellone, cioè è un oligopolio, è un oligopolio come si studiavano una volta a scuola, no? Cioè, il tipico oligopolio, pochi soggetti, tre soggetti controllano i due terzi del mercato mondiale dei pesticidi, anche OGM, e anche a questo punto le sementi, no? Diciamo, sta diventando sempre questo, e queste cifre danno anche la risposta forse all'altra tua domanda, cioè le preoccupazioni dell'antitrust. Ci sono le preoccupazioni dell'antitrust, bisogna vedere in che forma si esprimeranno queste preoccupazioni. Ci sono in particolare in Europa, perché per esempio la Commissione europea ha aperto un'indagine approfondita nei mesi scorsi proprio su uno di questi merger, ma ormai in stadio avanzato, cioè quello tra Dow Chemical e DuPont. Quindi è immaginabile che ci siano forti preoccupazioni antitrust, non solo delle autorità europee, ma anche di quelle americane e globali, anche sugli altri merger, perché chiaramente la sfida di una eccessiva concentrazione di pressioni sul reddito degli agricoltori, sull'economia reale in generale, da questo tipo di combinazioni è sicuramente un rischio presente. Potrebbero quindi arrivare dimissioni, richieste di di cessione di attività di cui potrebbero avvantaggiarsi al momento società rimaste magari ai margini, quali un'altra tedesca come la BASF, però al momento la risposta dell'antitrust è ancora a venire. Ma quale potrebbe essere? Perché quello che, da come capisco io, insomma, l'antitrust dovrebbe mettere in discussione tutte queste operazioni, non è che può scagliarsi solo contro Monsanto, Bayer Monsanto. Sì, sì, dovrebbe esaminarle e le sta esaminando, infatti diciamo queste operazioni non sono ancora definitivamente concluse. Nel caso di ChemChina Syngenta è arrivata una significativo primo via libera dalla speciale commissione americana che si occupa dei problemi di sicurezza così nazionale nelle fusioni con protagonisti diciamo internazionali problematici, quale può essere una grande azienda cinese come la ChemChina. E questo perché la Syngenta, che è svizzera, ma in realtà ha molte attività negli Stati Uniti, quindi la Commissione americana però ha dato un primo via libera, ma altri non sono ancora arrivati. La Dow Chemical DuPont, come abbiamo detto, è ancora oggetto di indagini antitrust che continuano, e quindi è possibile che arrivino richieste di dismissioni, certo. se non appunto di bocciature. E vabbè, la Monsanto Bayer, la Bayer Monsanto, anzi, è ancora l'antitrust ancora diciamo deve esaminare il dossier. Detto questo, chissà se davvero interverranno. Diciamo, la storia recente dell'antitrust internazionali non è sempre così significante. Quindi... Ecco, l'altra domanda che avevo per te è, visto che insomma, il diverso peso tra Bayer e Monsanto è cosa evidente, la Bayer, che è tedesca, è una delle principali case farmaceutiche al mondo, ha quasi 80 miliardi di euro di capitalizzazione, 46 miliardi di giro d'affari e 116 mila dipendenti. La metà, o meglio, Monsanto vale la metà, capitalizza 46 miliardi, anzi meno della metà come giro d'affari, 14 miliardi e 18 mila dipendenti. Le proporzioni erano abbastanza ovvie, siamo a una e tre volte l'altra, se guardiamo almeno come media tra dipendenti, capitalizzazione e giro d'affari. Però negli Stati Uniti nessuno ha detto attenzione, ci colonizzano i tedeschi, chiedo. No, diciamo che su questo fronte non c'è questa reazione, diciamo, non c'è una reazione diciamo così di difesa nazionalistica, anche se chissà la futura presidenza Trump magari potrebbe cambiare il clima se mai avvenisse, ma no, perché comunque sono grandi gruppi che hanno diciamo operazioni internazionali e diciamo la logica del merger globale prevale nel caso di Monsanto. Monsanto porta, sono attività diciamo abbastanza complementari quelle tra Monsanto e Bayer. Monsanto porta in dote soprattutto le sementi, comprese le sementi più sofisticate, appunto sì, la bioingegneria, e Bayer porta in dote molta attività nei pesticidi, erbicidi, per cui ecco, questo business a questo punto per la futura Bayer Monsanto diventerà quasi metà dell'attività accanto a quello più tradizionale farmaceutico. Sì, devo dire a chi mi scrive che il rischio oligopolio l'abbiamo messo in evidenza, e c'è tutto, c'era già abbastanza anche senza questa fusione, ed è il motivo per cui, se ricordate alcune puntate che abbiamo dedicato alla sperimentazione degli OGM, uno dei motivi che i ricercatori del CNR e del mondo dell'agricoltura davano come buon motivo per continuare almeno a far ricerca sugli OGM in Italia è non regalare, lasciare tutta la ricerca ai colossi mondiali, in questo caso Bayer e Monsanto, che poi la fanno e la dirigono su quello che a loro giustamente interessa di più: soia, mais. Faccio notare che il 70% dei mangimi dei nostri animali è già geneticamente modificato, come abbiamo raccontato più volte. Ma c'è un elemento anche più strategico, a mio avviso: se noi smettiamo di fare ricerca e proibiamo la ricerca su quello, lasciamo tutta la ricerca, e quindi i prodotti, l'applicazione di questa ricerca, a colossi del genere che, dovendo fare numeri stellari, poi si orientano solo su quelle produzioni che più gli convengono, e invece il nostro paese, come altri, avrebbe bisogno di fare ricerca anche su altre produzioni di cui la Monsanto non si occupa, parlavamo di mele, di pere e di quant'altro, dove l'effetto tuttora dei pesticidi è tutto da dimostrare che sia migliore di un organismo geneticamente modificato. Ma intanto si faccia un po' di ricerca, perché sennò il rischio monopolio è totale, lo vediamo adesso. Grazie anche a Marco Vassani in collegamento con noi da New York. Qualcuno mi chiede del tema del crollo, e quindi Anjin, se ben capisco, del crollo, ce ne occuperemo. Ci sono due temi che non siamo riusciti a seguire questa settimana: Esselunga, quindi Caprotti che dà il mandato per cercare un compratore pur di non darla ai figli, questo lo aggiungo io, ma non è così distante davvero, e le ripercussioni che potrebbe avere la crisi dello shipping sudcoreano soprattutto sulle banche tedesche, che sono esposte per quasi 80 miliardi di euro in prestiti. Lo affronteremo. Adesso c'è il GR24, poi parliamo di borsa e di questo discorso di Juncker sullo stato dell'Unione Europea, in cui ha promesso un raddoppio degli investimenti dentro l'Unione Europea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa e poi ci spostiamo ai temi toccati da Juncker, quelli di carattere economico soprattutto, ripeto, cercando di individuare la ciccia e non solo le dichiarazioni di intenti, di cui l'Europa ormai, la strada europea è lastricata. Allora, la borsa, per quello che riguarda Milano, la chiusura è invariata, Parigi meno 0,40, invariata Francoforte, Londra più 0,1, Dow Jones più 0,30%. Al di là del Monte dei Paschi, di cui abbiamo finito di parlare prima del GR24, negativa anche UbiBanca meno 1,70 come Generali, l'1,5 lo perde Moncler e Fiat Chrysler, l'1,20 Unipolsai e Pop Milano, l'1,1 Telecom Italia. Invece molto bene Buzzi Unice in più 3,30, Finecobank più 3,20, Recordati più 2,14, Mediaset più 1,40, Unipol più 1,20, Exor più 1% come CNH Industrial. Allora, oggi debole tutto il settore bancario, chiedo conferma appunto Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Vorrei concentrarmi però su Fiat, perché è successo qualcosa di strano, c'è stato, se ho ben capito, un errore anche in ordine di vendita. Sì, questa mattina i titoli di FCA poco dopo l'apertura sono arrivati a segnare un calo di oltre il 4%, poi alla fine hanno chiuso deboli ma in ribasso dell'1,55%. Secondo i trader la performance di questa mattina è stata forse determinata da un errore di un operatore che ha sbagliato a immettere il prezzo sulla vendita delle azioni. Poi al di là dell'errore di questa mattina e quindi di quel meno 4%, i titoli sono andati abbastanza male in quanto per due motivi fondamentali. Primo, perché sembra che si siano un po' arenate le trattative con Samsung interessata a Magneti Marelli e quindi a un eventuale riassetto che passa proprio per la controllata di FCA. E secondo, rimane comunque sullo sfondo anche il rapporto con la Germania in tema di controlli sulle emissioni del gas. Secondo indiscrezioni, la Commissione dell'Unione Europea ha invitato i rappresentanti di Italia e Germania a Bruxelles proprio per un incontro chiarificatore su questo tema. E questo per quello che riguarda appunto Fiat. Invece Telecom, anche lì c'è notizia, oggi il titolo debole 1,12% il calo, e c'è il tema Iliad. Sì, in questo caso infatti l'IAD, sempre secondo indiscrezioni, vuole entrare in forze sul mercato italiano, volendo conquistare addirittura tra il 10 e il 15% della telefonia mobile, ovviamente offrendo prezzi molto scontati e anche contratti web, contratti per navigare su internet. Gli esperti sono abbastanza scettici, ma soprattutto l'amministratore delegato di Telecom Italia ha cercato di gettare acqua sul fuoco, non riuscendo tuttavia, perché il titolo alla fine ha perso l'1,12%. Comunque Cattaneo ha detto che il mercato francese, dove Iliad ricordiamo che invece è riuscito a far successo e in pochi anni a conquistare oltre il 10% e poi arrivare oltre il 20% di quota di mercato, il mercato italiano è molto diverso da quello francese. Inoltre ha ricordato comunque che Telecom Italia prenderà tutte le contromisure per combattere appunto la concorrenza che sferrerà Iliad. D'altra parte ovviamente il dubbio rimane, a questo punto le azioni sono andate giù. Bene, invece si è mossa bene oggi Mediaset, su questo devo dire che al di là della vicenda Vivendi e quindi Mediaset Premium, c'è anche il rapporto PricewaterhouseCoopers. Sì, è un rapporto positivo sull'andamento della raccolta pubblicitaria. Secondo infatti la società di consulenza, la raccolta pubblicitaria da qui al 2020 crescerà in particolare del 3,6% ogni anno, raggiungendo in Italia una quota superiore ai 9,1 miliardi di euro. Quindi questo ha fatto bene un po' al settore che raccoglie pubblicità e in primis alla stessa Mediaset. Sì, devo dire che nel rapporto, lo dico per inciso, visto che ci riguarda, c'era anche tutta una prospettiva molto favorevole sul mercato pubblicitario nel mondo radiofonico. Sperem, visto che siamo direttamente chiamati in causa. Andiamo invece sul settore del lusso. Oggi ha un po' sofferto, in particolar modo Salvatore Ferragamo, meno 0,70%, ma ha sofferto di riflesso, diciamo. In questo caso è stata infatti la Svizzera Richemont a far tremare gli operatori. La casa svizzera ha annunciato una contrazione delle vendite nei primi 5 mesi del suo esercizio fiscale, cioè quelli che si sono chiusi praticamente ad agosto, del 13%, ma soprattutto ha ammonito il mercato che nel primo semestre, compreso quindi il mese di settembre, dovrebbe accusare un calo degli utili addirittura del 45%. Quindi questo ha fatto tremare un po' tutto il mondo del lusso, si teme che i conti del settore non saranno brillanti come negli anni passati. Andiamo anche sui migliori e peggiori oggi in borsa, Molmed più 5,90, LN più 5,50, SNAI più 5, Sintesi più 5, Safebag più 4,70, fronte opposto, Poligrafica San Faustino meno 7%, Vita società editoriale meno 5,60 e poi City Biofarma meno 4,70, Club meno 4,20, Tods meno 3,60%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, il piano di investimenti dell'Unione Europea. Allora, innanzitutto va detto che il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, oggi nel discorso sullo Stato dell'Unione ha detto che siamo in Europa in crisi esistenziale. A un anno di distanza dal discorso precedente, l'Unione Europea non è in gran forma, sono cambiate tante cose, possiamo parlare di crisi esistenziale. E vabbè. Ai governi Juncker ha detto che i cittadini sono stufi di poca coerenza. Tutti devono fare discorsi europeisti nei loro parlamenti nazionali, dire sì con entusiasmo a Bruxelles e poi far finta di non aver partecipato al contrario di quello che definisco coerenza. E poi il programma proposto, un programma positivo per i prossimi 12 mesi, se vogliamo superare le divisioni tra est e ovest, aggiungerei anche tra nord e sud, ma lo dico io. E poi sentiamo questo passaggio in cui, insomma, Juncker ammette che soffiano pesanti venti di rottura sull'Unione Europea e però invita tutti a restare uniti per il futuro delle prossime generazioni. Je suis aussi jeune que le projet européen qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine en mars 2017. Sono giovane quanto il progetto europeo che compirà 60 anni il prossimo anno. a marzo 2017, anzi, lui è più giovane. A questo progetto ho dedicato tutta la mia vita, con convinzione e senza esitazione. Mio padre credeva nella stabilità continentale e nei diritti dei lavoratori. Aveva capito quanto la pace in Europa fosse preziosa e fragile. Lui, che è dovuto andare in guerra contro la sua volontà e quella del suo paese. Credo nell'Europa perché mio padre mi ha inculcato i suoi valori. Ma cosa trasmettiamo noi ai nostri figli in questo momento? Quale Europa vogliamo lasciare in eredità? Un'unione che corre veloce verso la disunione? Che ha dimenticato il suo passato e non ha alcuna visione del futuro? I nostri figli meritano di più. Meritano un'Europa che preservi il loro modo di vivere, che li difenda e li protegga. È tempo che tutti, cittadini, istituzioni, governi, ci facciamo carico delle responsabilità di costruire questa Europa e di farlo insieme. So che ci sono dibattiti sul futuro dell'Europa tra ottimisti e pessimisti che dubitano di tutto e del contrario quando si tratta di Europa. L'Europa ha una missione sia a casa sua sia nel mondo. E dico anche che tra pessimismo e ottimismo c'è la volontà di chi non si piange addosso, ma ha a cuore la sorte di chi verrà dopo. La storia non si ricorderà di noi, ma si ricorderà dei nostri errori. Non rendiamoci colpevoli di errori che mettono fine al sogno europeo. Non nous rendons pas coupables d'erreurs qui mettraient fin au rêve européen. Allora, questa è la parte, diciamo così, programmatica del discorso. Poi c'è tutta la parte sul piano di investimenti, perché Juncker ha detto voglio rilanciare il mio piano, almeno 500 miliardi entro il 2020 e 632 fino al 2022. A mio avviso è mancata un po' di autocritica in Juncker, ma ci siamo abituati, sul perché l'Europa abbia una salute così malaticcia. Ma intanto, nel ringraziare la mitica Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore per i temi europei, in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Ti chiedo un minuto di pazienza, un tuo primo commento su questo e poi sul piano di investimenti, perché un ascoltatore mi scrive in maniera scherzando, il doppio di niente è sempre niente. Vabbè, vediamo se è proprio così. Traffico. Focus Economia. Allora Adriana, ci voleva un po' di autocritica forse, come scrivono gli ascoltatori, però visto che questo si lega anche alla parte, diciamo, più di contenuti, ascoltiamo, se sei d'accordo, anche la parte del piano di investimenti. Vuole raddoppiarlo, ha generato già 150 miliardi, ma voglio portarli a 500 nel 2020 e 6, fino a 632 nel 2022. The 350 billion investment plan for Europe. Il piano per l'Europa da 350 miliardi che abbiamo sancito qui ha già raggiunto la quota di 160 miliardi di investimenti nel primo anno. Oltre 200.000 piccole imprese in tutta Europa hanno ricevuto prestiti grazie al Fondo Europeo per gli investimenti strategici. Ora dobbiamo fare un passo ulteriore. Proponiamo di raddoppiare la durata e di raddoppiare anche la capacità finanziaria del fondo. Garantiremo in questo modo che il fondo fornisca almeno 500 miliardi di euro di investimenti entro il 2020. Un ulteriore passo sarà arrivare fino a 630 miliardi al 2022. Senza dubbio, con il contributo degli Stati membri, possiamo raggiungere questi obiettivi più rapidamente. With member states contributing, we can get there even faster. Allora, Adriana, un po' più di autocritica per lo stato di salute in cui versa l'Unione Europea e il piano a ciccia dentro, scusami l'elemento poco, diciamo, poco finanziario. Prego. Beh, l'autocritica in questo caso non mi sembra che avrebbe dovuto arrivare da Juncker, dovrebbe arrivare dai governi, nel senso che se guardiamo alle cose come stanno, Juncker le sue proposte le ha sempre fatte, appunto dal piano investimenti alla politica migratoria, alla stessa difesa di cui ha accennato oggi. Il problema è che la Commissione propone e il Consiglio, cioè i governi, dispongono. E quindi c'è questo gioco molto spesso, come dire, criminalizzare la Commissione come il capro espiatorio di tutto quello di buono che non succede in Europa, ma la vera verità è che il potere ce l'hanno in mano i governi. Quindi sotto questo aspetto non me la sento di attaccare il piano degli investimenti, vuoto. Sì, cioè c'è questo effetto leva che muove questo piano, che comunque qualcosa ha prodotto, nel senso che sono stati dei 315 miliardi che doveva produrre, finora ne ha tirati fuori, il PNA è riuscito a raccogliere sul mercato 116, di cui tra l'altro una parte è arrivata all'Italia. Oggi c'è questo raddoppio, naturalmente lui lo propone, il raddoppio, ma bisognerà vedere i governi cosa faranno, cosa decideranno, e comunque sarà sempre, diciamo, non uno stanziamento vero e proprio, ma un parziale riciclo di soldi, dei soldi già che ci sono, certo, nel bilancio europeo, che poi dovrebbero servire, come attualmente, a fare leva sul mercato con un effetto moltiplicatorio da 1 a 15. Sì, che, su cui, quindi, noi abbiamo sempre delle operazioni, esatto, finanziarie, che tendono a raccogliere soldi sul mercato, ma questo perché, non per colpa di Juncker, ma semplicemente perché l'Europa oggi non ha nessuna intenzione di mutualizzare niente, né i rischi né le sue, né le opportunità che possono derivare da una maggiore crescita degli investimenti. E diciamo, il male sta nei governi in questo momento. La Commissione fa quel che può, non può che subire a sua volta i governi. Ecco, su questo, perché Adriana, non c'è ha stato poteri decisionali. No, questo fai bene a ricordarlo. A me è sembrato, però, un giudizio personale in questo caso, un po' cerchio bottista Juncker quando ha detto: bisogna che l'Europa riparta. Però questo non è un piano di flessibilità, è un piano di stabilità, e quindi ribadendo l'importanza della stabilità. Poi abbiamo scoperto che ha saltato il passaggio in cui avrebbe dovuto più insistere sulla flessibilità. Il portavoce della Commissione, Margaret Skinner, ha detto che nella versione approvata c'era un passaggio in cui doveva insistere sul fatto che è vero che bisogna arrivare al debito sotto il 60%, ma bisogna anche capire gli sforzi in corso, cioè, e Juncker avrebbe sorvolato su questo. Secondo te, ha cercato di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte nel dire non è un patto di flessibilità, però deve essere applicato in maniera intelligente? Sì, secondo me assolutamente sì, anche perché non bisogna dimenticare che stiamo entrando in una stagione elettorale in Germania, pazzesca, in Europa. In Europa. Prima della Germania ci sarà l'Olanda, poi la Francia e poi appunto la Germania. Senza contare gli altri appuntamenti, no? È saltato quello austriaco con la possibile elezione, certo, del presidente di estrema destra, che sarà rimandata, che è rimandata a dicembre. Insomma, poi c'è prima l'Ungheria con la storia delle quote sui migranti. Quindi ci sono, insomma, un sacco di appuntamenti elettorali, non ultimo il nostro. Quindi in questa fase è ovvio che la Commissione si deve barcamenare, anche perché la Commissione è un'istituzione di mediazione tra gli opposti interessi dei paesi, almeno così dovrebbe essere, e quindi certo è cerchio bottista, ma istituzionalmente è cerchio bottista nel tentativo di mediare tra interessi, diciamo, contrapposti, e non c'è dubbio che in questo momento Merkel abbia le mani legate, perché già ha un'opinione pubblica esasperata dalla questione dei rifugiati. Se dovessimo poi mettere mano a una riforma del patto di stabilità che fosse interpretata dai tedeschi in modo troppo lassista, potrebbe dimenticare per sempre la cancelleria, ammesso che poi voglia davvero presentare la sua candidatura. Per cui ecco, è ovvio che la Commissione deve cercare di galleggiare in mezzo alle difficoltà dell'Europa. Detto tutto questo, secondo me il discorso di Juncker, che ha avuto dei passaggi abbastanza alti come quello che tu hai fatto tradurre, per il resto è stato abbastanza, come dire, il tentativo di dare ai cittadini delle risposte concrete sui loro problemi, ma poi, voglio dire, per forza si scontra con la disoccupazione giovanile. Chi dice sì alla disoccupazione giovanile, ma poi i fondi dove li trovi? Quando, per esempio, il nuovo bilancio, ma è chiaro quello che tu dicevi, verrà tagliato del 25% certo, per la coesione. Quindi, cioè, ci sono sì delle enormi contraddizioni, ma sono nei governi molto più che nella Commissione. Sì, ed è quello che tu ricordavi sulle mani legate di Juncker. Vorrei ascoltare un ultimo passaggio che riguarda le banche, quindi riguarda l'Italia anche in maniera diretta, e poi chiedi un commento rapidissimo su questa vicenda Barroso, che secondo me sta delineando dei tratti un po' grotteschi, come se tutti si fossero accorti adesso che Barroso va a lavorare per Goldman Sachs. Comunque, prima Juncker sulle banche europee. European banks are in a much better shape Lo stato di salute delle banche europee è molto migliorato rispetto a 2 anni fa grazie agli sforzi che si sono compiuti insieme. L'Europa ha bisogno delle sue banche, ma un'economia quasi interamente dipendente dal credito bancario ha estrema necessità di stabilità finanziaria. Nel corso della crisi, infatti, abbiamo visto cosa è successo alle imprese e la loro difficoltà di accedere al credito. Ecco perché è urgente che acceleriamo il lavoro sull'unione dei mercati dei capitali. La Commissione ha stilato una roadmap a iniziare da oggi. L'unione dei mercati dei capitali renderà il nostro sistema finanziario più resistente, renderà più facile e più diversificato per le società accedere al finanziamento. Immaginate di gestire una startup e la banca vi rifiuta un prestito. Ora le opzioni sono molto limitate, mentre con l'unione dei mercati dei capitali ci sarebbero alternative. Allora, vabbè, è chiaro che doveva invocare a un'unione dei mercati dei capitali. Veniamo all'aspetto di Barroso, perché Juncker già l'altro ieri aveva detto non avrà più i privilegi da tappeto rosso. Ma perché c'è tutto questo imbarazzo all'improvviso? Insomma, la notizia... Allora, la mia posizione non è una posizione, diciamo, che prevale negli osservatori. Vai, Mitica. La mia posizione è la seguente. Barroso non ha violato nessuna regola deontologica che era stata fissata per quel che riguarda il post ruolo di commissario, presidente di commissione, eccetera. Allora, tra queste regole c'è il fatto che bisogna rispettare 18 mesi di intervallo tra l'aver lasciato la carica e l'assunzione di nuovi incarichi. Il Barroso ne ha lasciati passare 20 di mesi. Dopodiché è andato a Goldman Sachs. Allora, Goldman Sachs è diventato all'improvviso il demonio del capitalismo internazionale, globale. Sarà pure un demonio, ma io vorrei ricordare che tanta gente che è in posti importanti è passata da Goldman Sachs. È lo stesso Mario Draghi. Cioè, Mario Draghi ha lavorato in Goldman Sachs prima di poi andare... Non l'ho detto io. No, l'ho detto io, ma è una cosa nota. Questo, obiettivamente, Adriana, non è uno scoop. No. Nel senso che, non è assolutamente uno scoop, sono cose note. Allora, quando tu parli con la gente dici sì, beh, ma era una questione di opportunità. Ma quale opportunità, ragazzi? Mi dovete spiegare perché quando a suo tempo il commissario della concorrenza Sutherland andò a fare il presidente di Goldman Sachs nessuno fece un plissé. Come pure quando, non so, la Nelly Cruz, altra commissaria della concorrenza, è andata a lavorare per Uber, nessuno ha detto una mezza parola, o Bangemann ai suoi tempi per l'industria. Qualche tassista l'ha detta. Però, detto questo, hai ragione su una cosa, che lui ha rispettato le regole, quindi se c'è tutta questa, diciamo, sensibilità a livello di Bruxelles, devono cambiare le regole. Io penso un'altra cosa, così, perché a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca, come diceva Andreotti. Penso che, essendo cambiato il clima, sentendo questi venti molto critici sull'Unione Europea, a Bruxelles abbiano cercato di ripristinare una verginità che non dico che non abbiano mai avuto, ma sicuramente non si fa in questo modo. E quindi un po' di ipocrisia nei giudizi molto tranchant su Barroso c'è. Tu giustamente ricordavi che ha comunque rispettato le regole vigenti a Bruxelles. Grazie anche alla mitica Adriana Ceretelli in collegamento appunto dalla capitale belga. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.